Beato clandestino, beato desertore, beato obiettore, beato naufragato, beato alcolizzato, beato il drogato, beato affamato, beato creatore, beato redentore, beato il crocifisso, beato è il Signore.